Mix 24 di Giovanni Minoli. Come sta andando questo giubileo? Bene, benissimo, benissimo, proprio una mano santa, guardi. Una mano santa. No, non c'è gente. Zero pellegrini. Siamo in radio, ma penso che pure lei può fare un commento, no? Guarda, ecco, ce lo faccia lei. Che mani in tasca. Cioè, siamo qui a passare il tempo quasi. Una tragedia, non c'è nulla, proprio. Tutti spaventati. Mai visto una cosa del genere in vita mia. Cos'è la paura di attentati, di attacchi terroristici? Perché? Siamo un po' troppo allarmati, diciamo. Bisogna continuare a vivere, non è che ci si può rinchiudere dentro una casa e basta, insomma. Ci siamo spostati in un ristorante, è ora di cena e non c'è praticamente nessuno. È un disastro perché sta mettendo in ginocchio proprio il nostro settore. Cioè, è così per tutti? Direi proprio di sì. Certo. Di quanto è diminuita la sua clientela? È un 60% in meno. Il 60% vuol dire che sia a pranzo che a cena il suo locale è praticamente vuoto. Cambiamo locale. È stato un grosso problema il connubio giubileo e terrorismo, perché so di per certo, noi abbiamo un'attività pubblica, conosciamo tante persone che hanno tante strutture alberghiere, tante strutture ricettive che sono organizzate per un determinato tipo di lavoro. È stato tutto disdetto, è stato un grande flop. Questo giubileo per ora sembrerebbe essere un flop. Ma l'arrivo di Padre Pio a Roma ha cambiato tutto, un'esplosione di partecipazione popolare. Ha messo in crisi anche l'organizzazione dell'arrivo delle spoglie del santo. Giovanna Corsetti era tra i fedeli che lo aspettavano. Io dalle 3, signora. Dalle 3 di oggi pomeriggio? Arrivava, sì. Sono 5 ore che aspetto. 5 ore che siamo qua in piedi, sì. Una cosa vergognosa. Stiamo aspettando da una vita, guardi. È una cosa. 5 ore, signora. Ma guarda, è meglio lasciar perdere, è una vergogna. Ecco, ma perché è una vergogna? Comunque c'è tanta gente. Gente, sì, ma non c'è organizzazione, siamo nelle gabbie delle pecore qua dentro, nessuno dà l'informazione, ma stiamo scherzando sul serio. Ma come mai tutta questa attesa? Perché c'è stata la messa. E c'è stato un blocco di un'ora e mezza per una messa, per la messa che hanno fatto. E voi siete rimasti fuori? Praticamente. È il clero che doveva organizzare meglio. Cioè, che cosa doveva fare il clero? Doveva fare innanzitutto la messa. Non doveva dirla in quest'ora che c'era tutto un quantitativo di gente. Finite le celebrazioni, cominciate alle 18 per accogliere le spoglie dei santi Pio e Leopoldo, intorno alle 19.30 qualcosa si muove, ma lentamente, molto lentamente, troppo forse. Perché c'è solo un metal detector, ma sai, una persona per volta, guardi quante persone ci stanno, sono le 8:20. La gente deve andare pure a casa. Una persona alla volta, perché c'è un solo metal detector, ci stanno 50.000 persone. Non c'è un servizio d'ordine, niente. E un bagno c'è? Un bagno no, assolutamente. Qui c'è persone anziane, ci sono persone anziane. Siamo senza un bagno, senza un goccio d'acqua, niente. Non è passato nessuno a distribuire? Assolutamente, niente. Nessuna informazione. E gente solo che si è sentita male l'hanno portato con l'autoambulanza. Mi scusi, quanti anni ha? Io 86, vado per 87. Però non l'avrebbe fatto per nessuno. No, ma Padre Pio. Giusto per la fede, per Padre Pio. Ecco, ma perché Padre Pio è così importante? Ha fatto tante cose stupende e meravigliose, ha cambiato il mondo. Alle 21.30 anche noi, ad un passo dall'ingresso in Basilica, siamo dinanzi all'unico metal detector di questa serata. Borsa, auricolari, robe metalliche. Senta, ma c'è solo questo di metal detector? Sì. Non potevate mettere un altro metal detector dall'altra parte, sull'altra porta? Noi non possiamo rilasciare interviste, mi spiace. Questo è un unico evento, veramente grande, grandissimo, poteva essere organizzato diversamente. Cioè, l'unico evento del giubileo che abbia richiamato davvero gente non è stato organizzato bene? Assolutamente no, per niente. Mentre a Roma i problemi di organizzazione sembrano non essere da poco, anche a San Giovanni Rotondo non tutti sono contenti di questa partenza e di questo viaggio. Franco Granata, direttore Confesercenti Foggia. Voi non siete stati molto d'accordo sul trasferimento di Padre Pio delle spoglie di San Pio a Roma. Perché? Lo spostamento delle spoglie di San Pio viene accettato quale volontà di Dio. Ma ci sono grosse perplessità. Stamattina sentivo dei cittadini e dei commercianti che mi dicono che stanotte non hanno dormito, sono stati agitati. Ma no, perché? Il santo da vivo non si è mai mosso da San Giovanni Rotondo, per cui la cittadinanza ritiene questo evento anche una violazione alla volontà del santo. Cioè voi mi state dicendo che da vivo Padre Pio avrebbe detto no grazie. Confermo, difatti i fedeli si aspettano che ci sia proprio un atto ufficiale del Papa, una bolla papale che sancisca che questo è stato un evento straordinario di riconoscimento a tutte le azioni di misericordia che ha fatto il santo, ma che questo evento non si può più verificare. In altre parole, è la prima e l'ultima volta. Beh sì. Ha sentito, dottor Massucci, la Questura di Roma ha una grande responsabilità nel trasportare avanti e indietro per l'Italia le spoglie di Padre Pio. Come le proteggerete? Proteggiamo San Pio come un capo di Stato. Quindi questo vuol dire auto blindate, vuol dire scorta, vuol dire questo? Questo significa viabilità, significa trasferimenti veloci, significa personale specializzato che protegge le spoglie del santo, tutte quelle misure che noi mettiamo in campo appunto per i capi di Stato. Dobbiamo immaginarci quanti uomini coinvolti in questa operazione. Il nostro piano di sicurezza insieme con quello nazionale parte da un minimo di 800, arriva agli oltre 1000 uomini. E quanto costa garantire questo livello di sicurezza con tutti questi uomini? Le posso dire che un singolo poliziotto costa all'incirca 300 euro al giorno. Faccia lei i calcoli di quello che viene fuori. Insomma. 300 per 1000 uomini fa 300.000 euro al giorno. Però è un evento che si spalma su più giorni. I giorni sono un po' più di 10 e arriviamo a 3 milioni di euro. Ma chi li paga? Lo Stato italiano o il Vaticano ci dà una mano? È dovere e competenza dello Stato italiano che chiaramente fa fronte alla sicurezza non del Giubileo ma dei cittadini. Costi sostenuti, amarezza per chi lo voleva a San Giovanni Rotondo per sempre da una parte, ma finalmente entrando in chiesa la pazienza è ripagata e la fede e la gioia di chi ha aspettato Padre Pio possono esprimersi. Mi sono commossa. Mi è venuto da piangere, ma veramente, sa, mi sono ho rabbrividito proprio. Dovevo fare la fotografia, ma non so. È commossa, signora? Sì, un po' sì. Che sensazione? Una sensazione particolare. Sono felicissima, ne vale la pena, sono insomma devota a Padre Pio, quindi. Perché Padre Pio è Padre Pio. È una cosa che si sente. È una persona che ti senti dentro di te, come Dio d'altronde. Ma l'altro santo non c'ha tanto successo, San Leopoldo. Non lo conoscevo neanche. Non gli vuole bene nessuno all'altro santo. San Leopoldo, sì. Perché mi parlano tutti di Padre Pio. San Leopoldo, sono venuta per vedere tutti e due i santi. Sì, sono due grandi santi. Sull'altare, davanti alle spoglie di San Pio e San Leopoldo, un cordone di volontari e forze dell'ordine raccolgono dalle mani dei fedeli foto, rosari e lettere, di tutto. Ci chiedono cortesemente di passare la loro immagine, foto e via di seguito sulla, vicino a Padre Pio, in modo da ricevere una grazia o qualcosa. Più di questo non possiamo fare, perché tanto non possono passare, almeno questo glielo facciamo. Per favore, signori. È riuscita ad arrivare, signora? Sì, sì, grazie. È contenta? Io sono una devota di Padre Pio. Quanto tempo ha aspettato? Niente, c'è un servizio perfetto per gli handicappati, proprio perfetto, una gentilezza e una tenerezza che hanno tutti quanti verso di noi. Se ne va a casa più contenta stasera? Mi porto Padre Pio nel cuore. Questa settimana la nostra Sora Cesira, a modo suo come sempre, ci racconta perché fare il sindaco oggi non è poi così allettante. Annuncio facile, buongiorno. Salve, buongiorno, vorrei mettere un'inserzione gratuita. E quale categoria, prego? È una cosa politica. Ok, allora, politica e istituzioni, dica pure. Ricerchiamo un bravo e serio capolista per le comunali. Per lavoro molto duro in giunte piuttosto aggravate. Si richiede assenza di precedenti penali. Contattateci ora Pasti, così se vi va. Vado io, anzi no. Vado io, ma anche no. Vado io, proprio no. Ma perché? È perché no, appunto. Non è cattiveria, non è neanche pigrizia, è che oggi fare il primo cittadino non è conveniente. Che oramai non è più il tempo che puoi comandare. Che se metti il naso fuori ti sgrida la gente. La città ormai cade a pezzi e lei cosa fa? Vado io, anzi no, vado io, ma anche no. Vado io? È proprio no. Ma perché? È perché no, punto. Dai. Che poi non c'è neanche più il fatto che ti fai pubblicità, quindi... Quindi è molto meglio andare in video sul primo canale. Una sola apparizione, boom, sei già sulla cresta. E se ti insultano magari diventi virale. E anche se non vali un nazzo diventi una star. Adesso, come tutti i venerdì, con Alessandra Fiori sentiamo cosa vale la pena fare, vedere, leggere, ascoltare. Allora Alessandra. Giovanni, questa settimana ho ricevuto un curioso pacchetto rosso e dentro c'erano delle lettere d'amore, come questa. Voglio che tu mi ami ancora di più di quanto già non fai. Devi amarmi con tutto l'amore che hai per me, aggiungendoci pure il totale di tutti gli amori passati. È così che io ti amo, perché tu sei per me tutti gli amori. L'ha scritta Guillaume Apollinaire alla sua amata Louise il 2 gennaio del 1915. Ed è una delle lettere contenute in Ti amerò di un amore nuovo, il libretto pubblicato dall'Orma Editore nel curioso formato del pacchetto rosso, appunto. Un epistolario inedito e spedibile proprio come fosse una lettera, per riscoprire la poesia della passione e i suoi tormenti, e poi la gelosia, la volontà di possesso e l'aspirazione a rinunciarci, mentre sullo sfondo avanza la tragedia della Prima Guerra Mondiale, nella quale il poeta Apollinaire aveva scelto di partire volontario. Stamattina in scuderia ho trovato un fringuello morto di freddo, ma ancora tiepido. Avrei voluto fargli un massaggio cardiaco per tentare di riportarlo in vita, ma il vecchio maresciallo me lo ha chiesto per portarlo alla mensa degli ufficiali e mangiarlo. Sarà il mio tacchino, ha detto quel coglione. Sono stato costretto a darglielo, ma l'avrei volentieri preso a schiaffi. Ti amo, Guillaume. Ti amerò di un amore nuovo, lettere a Lou, di Apollinaire. Ma ci sono poi anche quelle di Virginia Woolf, di Italo Svevo, di Arthur Rimbaud, di Napoleone, perché i pacchetti sono tanti. Tutti opera dell'Orma, la casa editrice fondata da Lorenzo Flabbi e Marco Federici Solari, che della loro avventura dicono: «Sentiremo di aver raggiunto un obiettivo quando chi leggerà i nostri libri potrà dire: oggi mi sembra che il mondo sia un po' più grande». Ed è proprio quella la sensazione quando si arriva a chiudere un altro libro pubblicato da loro l'anno scorso, Gli anni, di Anne Ernaux, da molti considerato tra i più bei libri del 2015. Un'indagine sul tempo e sulla memoria, in cui la storia personale dell'autrice si intreccia a quella collettiva che va dal dopoguerra a oggi. Ci sono l'Algeria e la maternità, De Gaulle, il 68 e l'emancipazione femminile, l'avanzata della merce e le tentazioni del conformismo, l'esplosione di internet e l'11 settembre. E allora, per un mondo un po' più grande, Gli anni di Anne Ernaux e Ti amerò di un amore nuovo, lettere a Lou di Apollinaire, l'Orma Editore. Pietrangelo, buongiorno. Buongiorno Alessandra. Allora Pietrangelo, dove andiamo questo weekend? Questo fine settimana ci prendiamo l'aeroplano e scendiamo su Punta Raisi. Ti porto in Sicilia. Ecco, hai visto che bella strada? Ti sto portando, sai dove? Dove? Senti le cicale. Ti sto portando a Partinico. E perché mi porti a Partinico? Per due motivi. Uno è perché devo cercare di capire una cosa che mi assilla da quando ero bambino. Perché uno Partinico e arriva Ranne? Ce lo spiegherà il nostro ospite che ti presento, Amedeo Lamattina. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Amedeo Lamattina, che ha scritto un libro assai particolare. Ed è L'incantesimo delle civette. Allora, è l'estate del 1967, siamo appunto a Partinico, un paese siciliano in cui improvvisamente arriva la troupe del Giorno della Civetta, il film tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia. I protagonisti sono Franco Nero e Claudia Cardinale. E c'è un ragazzo, Luca, a 14 anni, odia i libri, la scuola e si innamora perdutamente della Cardinale, come dagli torto. Così la sua estate viene sconvolta insieme a quella di Partinico. Le gonne delle ragazze si accorciano, i capelli degli studenti si allungano e la mafia rimane a guardare, almeno fino a quando il vecchio boss scopre il tema del film e mette in piedi un piano per far rapire Franco Nero. Luca scopre il piano e sogna di sventarlo. Ecco, Amedeo Lamattina, la storia è raccontata da Luca 40 anni dopo. Esatto. Luca è lei. Ma soltanto in parte, perché io avevo 8 anni, quindi insomma ero un bambinello. Io lo attribuisco a questo ragazzino di 14 anni, che è quello che è successo a me negli anni 70, cioè la scoperta tanto dei libri, la scoperta di Sciascia, la scoperta può sembrare strano, ma è così, la scoperta della mafia, cioè scoprire che io vivevo in un paese in cui c'era la mafia, questo cancro che impediva e impedisce di svilupparsi non soltanto economicamente ma anche, diciamo, culturalmente. Sciascia fu il primo con il giorno della Civetta nel 63 a parlare non solo di mafia, attenzione, ma di mafia e politica. Io l'ho scoperto negli anni 70, lo faccio scoprire a questo ragazzino negli anni 60 con l'occasione appunto dell'innamoramento, nell'occasione appunto del film, e questo ragazzino cresce, diventa adulto, infatti il libro è un romanzo di formazione. Con l'occasione dell'innamoramento, Amedeo La Mattina ha risolto il dilemma che mi assillava da bambino. E qual era? E che appunto parte Nico e arriva grande, ma alla fine tu... Adesso, dopo aver scritto questo libro, una copia, il volume, gliel'hai fatto avere a Claudia Cardinale? Ci sto provando, siccome è un romanzo molto dolce nei tuoi confronti, vorrei che lei lo leggesse e vorrei tanto tanto che lei venisse a presentarlo con me a marzo. A Partinico la devi portare, vabbè, ti ci faccio arrivare subito sull'onda di un valzer, quello che ballerete tu e lei, altro magari, che Bart Lancaster, ecco le note. Ciao. L'incantesimo delle civette di Amedeo La Mattina, edizione O. E adesso andiamo al cinema. I David di Donatella. Che poi sono io. Donatella, buongiorno. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, grazie Donatella. Bravo. Senta, ma com'è il nuovo film di Tarantino, The Hateful Eight? I detestabili otto. Chi è? L'ho tradotto. Brava. Hai capito? Grazie. E ti dico pure, lo sai che questo è il film di Tarantino con il titolo più lungo di tutti, perché gli altri ne avevano solo due di parole e questo invece ce n'ha tre? Non lo sapevo. Comunque, ti dico, c'è un sacco di neve, ma proprio tanta. E ci stanno questi otto tipi detestabili, appunto, però neanche tanto, perché a un certo punto mi stanno simpatici, che si ritrovano tutti in una specie di rifugio, capito? Non ho alcuna intenzione di passare un paio di notti sotto questo tetto con persone che non conosco. Quindi presentatevi. Ok, statemi a sentire. Tutti, accompagnerò questa donna alla forca. La ricompensa è di $10,000. Quel denaro è mio, fanciulli. Oh, interessante. Direi. Otto matti! E non ti puoi fidare di nessuno di loro, eh? E neanche loro si fidano fra loro. Infatti, arrivano i problemi, eppure grossi. E questo, sai, è il quarto film di Tarantino in cui si sparano nelle palle. Che notizia! Sì, e si vede che a Tarantino gli stanno sulle palle le palle. Che gioco, ho capito, non a te. E poi, la musica sonora è scritta un italiano, penso, Morricone. Beh, un po' italiano, Ennio Morricone, che dopo l'Oscar alla carriera nel 2007 adesso è candidato per la miglior colonna sonora. Sì, Morricone però mi piaceva di più, però la musica è bella, è bravino. Beh, meno male. Senta, The Hateful Eight, l'ottavo film di Quentin Tarantino, il suo secondo western con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh. Ma insomma, sì? Donatella, vale la pena vederlo? È bello, però... Ti dico pure che è il film più lungo di Tarantino, perché dura 187 minuti. Quindi magari se sei stanca non ci andare la sera troppo tardi. Grazie, capito? Donatella! Oppure ci puoi andare mangiata oppure un po' dormita. Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che bontà! Mangiare e dormire, roba da smamme, e quindi da Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale, come va? Io bene, ma mi pare di capire che parliamo di bontà? Parliamo di bontà e di ricette, argomento su cui, lo sappiamo, le smamme di solito non sono ferratissime. Però se non siamo riuscite a conquistare fino ad oggi con i nostri piatti fidanzati, mariti, amici, suocera, cane, pesce rosso, oggi abbiamo un'altra chance per poter conquistare invece i nostri bambini. C'è una app che si chiama Il Cucchiaino d'Argento che ci insegna a cucinare anche piatti più difficili. Da brava, su, apri. Sembra una novità. È pericoloso? Che cos'è? Ah, Ok, attenzione, c'è un odore sospetto, gente. Un momento, che cos'è? Lei è disgusto. In pratica evita che Riley venga avvelenata. Fisicamente e socialmente. Non ha colori sgargianti o la forma di un dinosauro. Aspettate, sono broccoli! Yucky! Riley, se non mangi la cena, non avrai neanche il dolce. Ecco, c'è una ricetta, ad esempio, su propri broccoli per fare una pappa verde con patate e broccoli, oppure un brodino al formaggio, oppure ti insegnano come fare la mela grattugiata. Beh, certo, capisco, la fondamentale ricetta per la mela grattugiata. Difficilissima farla bene, è difficilissima. Cioè, tu mi stai dicendo che in pratica è tutta una questione di broccoli e come si grattugiano le mele. Cioè, se io avessi saputo cucinare i broccoli, tutto sarebbe stato diverso. O forse stai sbroccolando. Ah, dici? Dico. Smammo? Dai, smamma. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu... Ed eccoci alla musica, come sempre, con Franco Schipani. Ciao Franco. Ciao Alessandra. Un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò. Ma che bella canzone, la conosci? È certo che la conosco. È dei Nomadi, la loro bandiera, Io Vagabondo. Pensa che questo gruppo è stato fondato nel 1963. Hanno registrato dal vivo in studio una miriade di LP, quanti sono? Credo 78 album. Ecco, loro sono i Grateful Dead italiani. Li conosci tu, Grateful Dead? No, però conosco il capellone del liceo che mi ha fatto scoprire i Nomadi, che era sicuramente un aspirante Grateful Dead, sai, quelle famiglie tu? Che si muovono, hanno un pubblico dai 5 agli 89 anni con queste magliette psichedeliche. Ecco, non è il caso dei Nomadi, perché non hanno le magliette psichedeliche, però hanno sempre gli accendini quando vanno al loro concerto, specialmente su questa canzone. Insomma, tutto per dirvi che questo concerto dei Nomadi, questa sera al Teatro Dal Verme di Milano alle ore 21, non lo potete assolutamente mancare. E di gruppo in gruppo, questo è un altro gruppo leggendario, te lo ricordi Alessandra? Io sono pazza per i Toto. Per i Toto, pensa, cioè, che... per questa canzone dei Toto. Beh, ne hanno fatte tante belle i Toto. Pensa che prima le facevano per altri. Erano negli anni 70 un gruppo di musicisti a Los Angeles, erano i più bravi sulla piazza e suonavano veramente con tutti. Poi a un certo punto hanno detto, scusa, ma perché non ci facciamo il gruppo noi e le canzoni ce le cantiamo noi? Lo hanno fatto. Qual è il risultato? 40 milioni di copie vendute. Il gruppo si è esibito ovunque nel mondo con grande successo e al Pala Alpi Tour di Torino domani 6 febbraio alle ore 21 è l'appuntamento con loro. Due appuntamenti da non mancare quindi questa settimana, perché ne vale la pena. Una furtiva. Ecco, pochi come Gaetano Donizetti sono riusciti a combinare la passione per la musica con quella, con l'impegno sociale e quello politico. Ecco, un genio musicale, un educatore del popolo e un fervente patriota, bergamasco di nascita ma napoletano d'adozione. Pensate che diceva Donizetti, se c'è un napoletano più napoletano di lui, beh, non è possibile, perché lui è veramente, rappresenta l'animo napoletano, la più... napoletanità. Brava Alessandra, quella. Non avrei saputo dirlo meglio. Comunque la sua è una storia di un rivoluzionario, di un uomo straordinario. Chi ce la racconta? Giovanni Minoli. Quindi restate con noi.